Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci. Buona serata, gentili ascoltatori, ben ritrovati a Nessun Luogo è Lontano. Io sono Giampaolo Musumeci, Laura Faggini e Benedetta Acri sono in redazione a confezionare questa puntata. Di là dal vetro, Valeria Bernardi a darle musica e ritmo. Anche questa sera potete scrivere gli sms al 349-238-6666, scrivere mail a nessunluogo@radio24.it, cercarci su Facebook, Nessun Luogo è Lontano, -radio24, infine twittare a nessunluogo24. E l'avete sentito anche dal GR, ricco di spunti la giornata e la serata, spunti di natura internazionale. Un occhio è sempre a Sudafrica, dove la visita di Obama ha prodotto reazioni diverse e contrastanti e dove le condizioni di salute di Nelson Mandela restano critiche. L'altro occhio è sull'Egitto ed è lì che vi porto. Questo è il rumore, il suono delle piazze egiziane che si sono scaldate da mercoledì in poi. Perché? Perché al Cairo, ma non solo, anche Alessandria d'Egitto, anche Port Said, si sono svolte le prove generali, diciamo così, della grande manifestazione anti-Morsi prevista per domani. L'opposizione è infatti chiamata a raccolta tutti coloro che vorrebbero le dimissioni del presidente egiziano. E l'accusa è quella di aver preso in ostaggio la rivoluzione. Riot police and army helicopters were sent in, but little help to quell the fighting. Allora, dicevo, da mercoledì le piazze egiziane si sono infiammate. Il bilancio che arriva dal Ministero della Sanità egiziano per adesso è di 7 morti e 616 feriti. Ieri ad Alessandria, tra gli scontri tra appunto promorsi e oppositori, è stato dato l'assalto alle sedi dei Fratelli Musulmani, il partito di Mohamed Morsi. Ne ha fatto le spese anche uno straniero, un giovane americano 21enne, è stato accoltellato. All'inizio era girata voce fosse un fotoreporter, in realtà era lì sì a scattare foto, ma insegnava inglese nel porto egiziano ed è sceso in strada appunto per scattare foto dei tumulti. Ed è preoccupante anche la notizia che arriva di queste ultime minuti, queste ultime ore, che anche in Sinai si rinnova l'allarme perché a El Arish è stato ucciso da un comando di uomini armati Mohamed Hani, generale della polizia, mentre era a bordo della sua auto. Ma torniamo al Cairo perché il movimento Tamarod Ribelli, dopo settimane di raccolta di firme, ha annunciato di avere in pugno ben 22 milioni di firme appunto per far dimettere Morsi e l'invito, come vi dicevo, è a riunirsi in tutte le piazze del paese proprio domani. E quindi l'attenzione di giornalisti, analisti, osservatori sarà sul Cairo, ovviamente su Piazza Tahrir, ma anche i due grandi porti, Alessandria e Port Said. Grande attenzione va prestata a Port Said, forse una città meno lontana dai riflettori, i grandi media se ne occupano un po' meno, ma chi mi segue ricorderà i racconti della mia trasferta proprio a Port Said di qualche mese fa. La situazione, lo dicevo, è da tempo esplosiva, nella città girano parecchie armi, ci sono milizie. Non solo, in generale le regioni del Delta del Nilo sono profondamente anti-Morsi. E intanto, complice la morte di quel cittadino americano, gli Stati Uniti hanno invitato i connazionali a non recarsi nel paese, mentre il personale non indispensabile delle ambasciate ha preso in tutta fretta un volo per Francoforte. Ma la domanda che ci si pone è: Morsi rischia a davvero i giorni e le settimane contate? Siamo davvero alla vigilia di una nuova rivoluzione? Domani si celebra il suo primo anno alla guida del paese. Saprà la piazza anche arginare le violenze? Vi sono stati parecchi appelli anche di autorità religiose nel moderarsi, nel nell'abbracciare la calma piuttosto che la violenza, ma i segnali che arrivano in questi giorni vanno in tutt'altra direzione. I tanti giovani egiziani che stanno scendendo in piazza sono esasperati. Perché? Perché questo primo anno di Mohamed Morsi ha consegnato fondamentalmente un paese in crisi. Da un lato una profonda crisi economica e dall'altro questa spaccatura in due tra chi sostiene i fratelli musulmani e Morsi e chi invece sostiene che Morsi abbia in qualche modo usurpato quella rivoluzione del 2011, se ne sia appropriato. E quindi è inutile azzardare previsioni su domani, perché davvero tutto può accadere. E dopo l'Egitto voltiamo pagina e adesso vi porto a Ulaanbaatar in Mongolia. I shall work for the freedom and happiness for all my people. I shall do everything in my power for a fair, a just system and the development of this country. Farò di tutto per lo sviluppo del mio paese, così Zakia Elbeghori, e sicuramente sbaglierò la pronuncia, ma il nostro ospite mi aiuterà a correggermi. Così Elbeghori è stato rieletto per il suo secondo mandato dopo il voto di giovedì scorso e ha battuto il rivale Bat Erdene. In campagna elettorale il nuovo presidente della Mongolia aveva insistito sulla necessità di proseguire con politiche liberali e di apertura ai capitali stranieri. Questa sera Nessun Luogo Lontano tenteremo di scoprire meglio un paese che per molti aspetti è sconosciuto ai più, ma ha profondi e interessanti motivi per occuparsene. Quindi innanzitutto do il mio buonasera a Federico Pistone, giornalista, esperto di Mongolia, responsabile del sito mongolia.it. Federico, benvenuto a Nessun Luogo Lontano. Grazie per avermi invitato e per dare spazio a questa terra meravigliosa che è la Mongolia. E comunque per la cronaca si dice Elbeghtorgi, ecco. Sei andato vicino. Allora, innanzitutto ho letto qualche tuo pezzo e tu in qualche modo avevi profetizzato, avevi previsto la rinnovata vittoria di Elbeghtorgi. Sì. Quindi niente di nuovo, mi viene da dire? Beh, niente di nuovo intanto perché Elbeghtorgi è stato riconfermato per il secondo mandato. E vorrei provare a invitarvi a immaginare lo scenario, così impariamo anche un po' la Mongolia. Questo è un territorio immenso, vasto 5 volte l'Italia, posso dire nel baricentro esatto dell'Asia, chiuso a nord dalla Russia e a sud dalla Cina, e popolato da meno di 3 milioni di abitanti, è la densità più bassa del mondo. Ecco, di questi la metà sono concentrati nella capitale Ulaanbaatar. Fuori, per migliaia di chilometri, in ogni direzione, c'è steppa, deserto, nomadi, che da millenni vivono con le stesse identiche tradizioni, le stesse tende, le stesse che aveva visto Genghis Khan, sì. Che sono le guerre, le famose bianche circolari guerre, le stesse mandrie sterminate di cavalli, capre, yak e cammelli. Ecco, semplificando, se mi consenti, possiamo dire che il presidente Zakia Elbeghtorgi, e quindi il Partito Democratico che rappresenta, è quello della città, di Ulaanbaatar, dei giovani, dei nuovi imprenditori, è l'apertura all'Occidente, mentre gli oppositori, lo storico partito rivoluzionario dell'ex presidente Heng Bayar, che tra l'altro sta scontando 1 anno e mezzo di carcere per una presunta corruzione, e quello del Partito Popolare, rappresentavano soprattutto l'anima nomade tradizionale, quindi un certo, diciamo così, nazionalismo scettico alle ingerenze esterne e animato soprattutto da un odio viscerale e storicamente giustificato verso la Cina. Quindi ecco. Ha vinto la città, ha vinto l'Occidente incarnato, diciamo, da Elbeghtorgi. Sì. Oriente contro Occidente, parte rurale contro quella metropolitana, è un paese vastissimo ma con anche tante contraddizioni, se vogliamo. Allora ascoltiamo insieme questa pennellata che abbiamo tentato di dare noi. La Mongolia è una repubblica parlamentare senza sbocco sul mare e dominata dalla steppa, scarsamente popolata e semidesertica. Si estende per 1,5 milioni di chilometri quadrati nell'altopiano dell'Asia centrale, ma la sua popolazione è di gran lunga inferiore rispetto a quella mongola della Cina. Appena 3,180,000 abitanti, poco meno della somma delle sole città di Roma e Milano. Un terzo della popolazione vive nella capitale, mentre circa il 40% della forza lavoro vive e lavora nei vasti pascoli del paese, con mandrie di bestiame. Tuttavia, il secolare stile di vita nomade è minacciato dai cambiamenti climatici e dall'urbanizzazione. La Mongolia ha un clima estremo, con una gamma di temperature molto vasta a cui adattarsi. Gli inverni, che durano da ottobre a marzo, sono molto rigidi. Le temperature scendono fino a 40 gradi sotto zero nella capitale e a meno 60 nella taiga. Gli effetti più devastanti si manifestano con lo Dzud, il fenomeno che permea di ghiaccio il terreno, impedendo alle mandrie di pascolare, causando danni rilevanti all'economia e alla popolazione. Da giugno ad agosto si ha il periodo più caldo, con temperature che possono raggiungere anche i 35 gradi. La Mongolia è una delle economie a più rapida crescita al mondo, spinta da investimenti diretti esteri milionari. Ha un tasso di crescita medio del 16,5%. Il paese siede su grandi quantità di minerali non sfruttati: carbone, molibdeno, fluorite, stagno, tungsteno e oro. La Mongolia ha ampliato i legami politici e finanziari con gli Stati Uniti, il Giappone e l'Unione Europea, ma i suoi principali partner commerciali sono le vicine Russia e Cina. Quest'ultimo è il più grande mercato per le esportazioni mongole. Pechino è anche desiderosa di sfruttare i minerali della Mongolia e le sue risorse energetiche. E come avete sentito, i motivi di interesse e che possono scatenare e scatenano gli appetiti delle potenze straniere sono tanti. In questo nostro viaggio in Mongolia, a pochi giorni dalla riconferma del presidente alla guida del paese, ci accompagna Federico Pistone, che quel paese lo conosce bene, giornalista, esperto e responsabile di Mongolia.it. E Federico, innanzi ti chiederei, l'ultima volta che hai visitato il paese quando è stato? Allora, un anno fa, purtroppo manco da un anno, perché tutte le volte che vado in Mongolia ci voglio restare almeno un mese e mezzo se non di più, e quindi per il lavoro purtroppo devo aspettare momenti migliori, ma ci vado presto e non vedo l'ora, perché ho tanti amici. Tra l'altro, se posso dirlo, conosco anche personalmente il Presidente della Repubblica, l'ho incontrato anche in un meeting economico a Milano, che è una persona di grande cortesia, ha apprezzato fra l'altro, se posso dirlo, la mia guida sulla Mongolia che ho scritto per la casa editrice Polaris, e mi ha chiesto fra l'altro, una curiosità, se posso collaborare con lui per scrivere un libro in mongolo sull'Italia, che lui ammira moltissimo, ma ha apprezzato ancora di più il volume ufficiale per i 100 anni dell'Inter che io scrissi nel 2008 con Massimo Moratti, perché Elbek Dorci è un, ci tengo a dirlo, è un tifoso scatenato dei nerazzurri e mi ha rivelato che quando l'Inter gioca si sveglia di notte e non si perde una partita. Questo è un punto a suo vantaggio. Questa è comunque una notizia, perché nella capitale che sprofonda a meno 40 gradi durante l'inverno, insomma, ci si scalda chi segue il calcio e chi segue ovviamente l'Inter. Nessun luogo è lontano. Хаггорн дитсоса хатгшин тэнгэр минь халуунгаата амар минь заалах чи юу эцэг минь бүх хөхө тэнгэр дор халах цусаа хатгаса бүгд нүрэн тантай хийх хилцэр басан байна өнөө нартай хатуу гэж таны хэлсэн үчиг үрэн үргэл багтаж явдаг таны хайрч хүчиг дутуухан зарим мөрс. E questa sera, gentili ascoltatori, Nessun luogo lontano vi porta in Mongolia, un paese incredibilmente lontano e molto poco conosciuto per noi italiani, eppure i motivi di interesse sono tanti, e ho come l'impressione che dal punto di vista anche geopolitico negli anni a venire acquisirà sempre più importanza. Ci conforta nelle nostre tesi e nel nostro viaggio e ci fa anche da guida Federico Pistone, giornalista, esperto in Mongolia, ha scritto anche una guida, come giustamente ricordava lui, per Polaris sul paese, e è responsabile del sito mongolia.it, dove appunto potete leggerlo. Federico, dicevamo un paese di contrasti, un paese con grande ricchezze minerarie. Quanto forte è la frattura, a cui tu già facevi cenno, tra la parte rurale, no? La parte più forse più dimenticata, e invece le città, che credo siano poche, perché al di là della capitale non c'è un'altissima urbanizzazione nel paese, no? Sì, c'è una frattura assoluta, sono due vite separate, come dicevi giustamente, sono pochissime le città o i villaggi che esulano, diciamo, da quello che è lo scenario complessivo, che praticamente sono queste immense vallate, steppe o deserti incontaminati, punteggiati solamente dalla presenza di nomadi con le loro ghere, le loro greggi, ma anche con animali selvatici. Fra l'altro, a proposito della trasmissione, nemmeno la Mongolia è un luogo lontano, sicuramente in questo momento è più tranquillo dell'Egitto e del Sinai, per stare all'attualità, sì. Ed è un paese veramente ospitale, sia la la capitale, che comunque è abbastanza frenetica. Io ricordo la prima volta che sono stato in Mongolia 15 anni fa, si poteva passeggiare in mezzo alla strada e le poche macchine in circolazione erano dei macinini rumorosi che sentivi a chilometri di distanza. Oggi invece quasi non si riesce ad attraversare la strada per il traffico impressionante, senza contare i nuovi edifici, le banche, sì, i ristoranti, gli alberghi, insomma ormai è una città occidentale. Sì. Basta uscire di pochissimi chilometri e si è proiettati in un luogo senza tempo, senza spazio, è veramente straordinario. Ma la cosa più bella di chi va in Mongolia, il ricordo più indelebile, è l'incontro con i nomadi, che sono veramente straordinari nella loro gentilezza, nella loro ospitalità, che per noi risulta quasi inimmaginabile. Sì. Il punto fondamentale, l'avete sentito anche dalla scheda che abbiamo preparato, è questa crescita, crescita del PIL anno 15, 16, 17%, qualcosa di inimmaginabile per un'Europa attanagliata da crisi, da austerità e quant'altro, che molto spesso sfiora i numeri col segno meno. Credi, Federico, frequentando il paese da così tanto tempo, che questo squilibrio e anche questa crescita così eccessiva basata su investimenti stranieri, su queste grandi risorse minerarie, ricordavamo appunto una serie di minerali preziosi, ma c'è anche il rame, ad esempio, sono stati scoperti recentemente enormi giacimenti. Credi che questo possa essere un elemento di squilibrio futuro? Noi sappiamo che a volte paesi non preparati alla gestione di una crescita così improvvisa possono acuire le differenze, e quindi quei nomadi, quella parte dimenticata, potrebbe essere, no, un fattore così cruciale, ecco, per il paese. Certo, questa attività è destinata ad avere conseguenze positive e nefaste insieme. Porterà ricchezza, che il presidente del Bektorci ha promesso già che sarà equamente ridistribuita alla popolazione, ma porterà anche, direi, anzi sta già portando sconquassi di tipo ambientale e sociale. Gli scenari del Gobi stanno mutando, i corsi d'acqua si stanno prosciugando, compresi alcuni laghi che sono proprio scomparsi in pochi mesi. Ma a preoccupare, secondo me, di più, se possibile, c'è lo snaturamento dello stile di vita dei nomadi, molti dei quali sono già stati ingaggiati nelle miniere. Sì, e quindi insomma questo sicuramente sarà motivo di trasformazione anche sociale nel paese. Invece l'ultima domanda, siamo quasi in chiusura nel nostro capitolo dedicato alla Mongolia, come vedi, come giudichi gli appetiti stranieri rispetto al paese? Hanno, come dire, quell'attitudine predatoria a cui ogni tanto assistiamo in giro per il mondo, o c'è, come dire, un soft touch, entrano in punta di piedi e anche con un certo garbo, diciamo, dal punto di vista politico ed economico? Guarda, c'è da dire che dobbiamo stare un po' alla finestra a vedere che cosa succede. Il potere di Elbekdorji coincide con la vera svolta epocale della Mongolia, che è proprio la scoperta e lo sfruttamento di queste miniere. Inizialmente il presidente ha srotolato proprio tappeti rossi per le multinazionali, che hanno portato cifre colossali per questo paese, sì, ancora vergine, ma le proteste reiterate dalla popolazione, soprattutto dei nomadi, gli hanno fatto cambiare rotta, soprattutto in vista di queste ultime elezioni, che rischiavano di vederlo spodestato. Quindi da una politica di apertura, quasi di servilismo, Elbekdorji è passato a quello che qui definiscono nazionalismo minerario, sì, cioè né ostile, dice lui, né amico delle multinazionali. Tra l'altro questa sua affermazione ha sollevato subito forti critiche da parte dei partner europei, americani e asiatici, che forse pensavano di poter disporre della Mongolia e delle sue ricchezze in modo più agevole. Certo, e invece insomma che essere un burattino, tra virgolette, nelle mani, no, di questi appetiti, di queste multinazionali, insomma il neopresidente pare mostrare spina dorsale bella dritta. Speriamo. E speriamo, e vediamo, e tu sarai lì per raccontarcelo, chissà, in una prossima altra occasione. Molto grazie volentieri. Mille. Grazie a voi. Grazie Federico Pistone per essere stato con noi, buona serata e buon lavoro. Grazie. Adesso non mi resta che aprire un nuovo capitolo, il terzo di questa puntata di Nessun Luogo è Lontano. Torniamo in Nord Africa, non nel turbolento Egitto di cui abbiamo parlato all'inizio, ma in Tunisia. Ancora tra le strade di Tunisi, ma anche nella più industriale città di Sfax, dove comunque la crisi economica si fa sentire. Poco meno di 10 giorni fa sono tornato in Tunisia. Perché? Perché nel paese si attende la nuova costituzione. il paese è guidato da questa cosiddetta troica, vi sono tre partiti, tra cui il principale sono il partito islamista di Ennahda. Che la Tunisia sia anch'essa di fronte a un bivio è innegabile, tanto quanto l'Egitto quantomeno. Che le anime più laiche del paese maltollerino questa deriva islamista è altrettanto indubitabile. Chi lo vive in propria prima persona, sulla propria pelle, è Nadia Gelassi. Sono andato a trovarla di nuovo perché avevo promesso che avrei seguito la sua odissea giudiziaria. Vi ricordate? Ricapitolo sinteticamente i fatti. Più o meno un anno fa Nadia Gelassi insegna belle arti a Tunisi, è anche scultrice e artista, espone una sua opera. Espone un'opera che era una testa sormontata da un velo e circondata da pietre, un evidente riferimento insomma a dei simboli dell'Islam. Questi riferimenti non sono piaciuti a un gruppo di salafiti che hanno segnalato l'opera e da lì, tramite il passaparola, sono scoppiati disordini, sono scoppiati scontri in tutto il paese, c'è scappato pure un morto, Nadia è stata accusata di fomentare disordini. E lì l'accusa la porterebbe addirittura a ben 5 anni di carcere. L'ho rincontrata a Tunisi, la volta scorsa ci siamo visti nel suo ufficio alla Scuola di Belle Arti, appunto nella capitale. Questa volta sono andato a trovarla a casa sua, nella periferia della capitale. La prima domanda è stata, le ho chiesto se questa odissea giudiziaria stia in qualche modo condizionando il suo lavoro dopo quella controversa opera e se è condizionata proprio nel processo creativo. Ascoltiamo insieme. Ascolti, nel processo creativo quella storia è una piccola parentesi nella mia vita. Prima di lavorare sul velo e le questioni relative al velo, ho lavorato su altre cose e ho sempre dato il massimo. Ora sono passata ad altri soggetti. Sto lavorando sulle finestre, sulle aperture, per il bisogno di aprirsi ad altre cose, eccetera. Non voglio più, in quanto artista, che questa storia del velo, anche se io ho fatto quello che ho potuto sul tema e ne ho subito le conseguenze, non vorrei che mi restasse incollata per sempre. Io sono prima di tutto un artista e non ho bisogno di etichette per la vita, quindi ho bisogno di passare ad altre cose, come le questioni politiche e sociali, attraverso questa nuova tematica. Può essere che il velo passi attraverso la finestra, non lo so, ma io sono già passata ad altro e rifiuto che il velo sia definitivamente incollato a Nadia Gelassi. Ma il velo, sì, può tornare. E insomma è interessante anche quest'ultima frase di Nadia, evidentemente quel tema le interessa ovviamente perché come dicevo la Tunisia è un paese veramente al bivio, da un lato c'è questa fortissima anima laica che vedi nei bar, vedi le università, vedi nella gente che gira, nelle donne che girano senza velo e poi quell'altra anima contro la quale appunto sta combattendo. Si è parlato di finestre, ora è in discussione la Costituzione. Ho chiesto a Nadia se questo nuovo progetto di Costituzione così dibattuto potrebbe creare nuove aperture o nuove chiusure nel paese. Dopo aver letto la versione in arabo e poi la versione tradotta in francese e dopo averne discusso con qualche amico e ascoltato l'opinione di qualche politico e anche di alcuni giuristi, per ciò che mi riguarda penso che esista ancora qualche articolo abbastanza ambiguo, troppo ambiguo per una Costituzione. Per esempio l'articolo numero 6 che afferma una cosa e il suo contrario, cioè lo Stato non può essere allo stesso tempo garante di libertà di coscienza e di espressione e protettore di ciò che si chiama il sacro. Il sacro, che cos'è? È qualcosa di molto ambiguo a sua volta, cioè nessuno può dire, ecco, questo può essere sacro. Al contrario, posso dire, questo è un posacenere di tal forma e tal colore, ma non si può fare con il concetto di sacro. Anche se mi riferisco al testo islamico. Non è una cosa che si può definitivamente individuare e conoscere, quindi l'articolo numero 6 è molto ambiguo. Non so come possa essere votato e come possa essere tradotto successivamente per la legge. Stessa cosa per l'articolo 145. Penso che sia l'ultimo articolo in tutti i casi che definisce cosa accadrà dopo l'accettazione della Costituzione. Sarà ancora un periodo di transizione riguardo alla Costituzione e ai testi che verranno creati in seguito per concretizzare gli elementi della Costituzione. Questo articolo definisce anche la creazione di una Corte Costituzionale, ma d'altra parte proibisce di dichiararsi sull'uniformità della legge alla Costituzione se un giorno emergerà questa Corte. E questo è completamente aberrante. Questa ambiguità mi fa molta paura. Spero che il passaggio di questo progetto e la discussione pubblica di questa Costituzione portino a nuove modifiche. E questa è veramente una questione politica. Tutto dipenderà dai giochi che si instaureranno, dalle discussioni. In tutti i casi, se passa nella forma attuale, avendo questa composizione dell'Assemblea Nazionale Costituente, passerà così, perché deve essere discussa articolo per articolo. È sufficiente avere il 50% più uno perché l'articolo passi. Quindi, guardando la configurazione della nascita, gli islamisti e la Troica nel suo complesso possono far passare quel progetto. Spero che non ci si arrivi, ma il problema è anche nel fatto che la Costituzione può passare articolo per articolo e potrebbe non passare nella sua globalità, perché per la totalità è previsto un voto a 2/3. Quindi probabilmente se passa per 2/3 si passerà al referendum e questo è ancora molto molto complicato da organizzare. È un'ambiguità, vorrei dire, malsana, perché l'ambiguità può essere creativa. Nessun luogo è lontano. L'incredibile odissea giudiziaria di Nadia Gelassi, colpevole, secondo il giudice che sta istruendo la causa, di aver provocato tumulti e disordini. La sua controversa opera, quelle teste velate circondate da pietre, non sono piaciute ad alcuni salafiti, da lì il passaparola, da lì proteste e disordini. Segno di una Tunisia in continua evoluzione, segno di una Tunisia che forse assomiglia sempre di più a un'arma bifronte, da un lato la sua anima laica, dall'altro la sua anima più religiosa e in alcuni casi poco tollerante. E al di là, come dire, dei contenuti più di colore, più folcloristici, al di là di come la possiamo pensare su un femminismo un po' di facciata, sul fatto che forse è più innamorata dello show e della visibilità, un'altra lotta è stata quella condotta e quella tuttora condotta da Amina, la femme in tunisina. Ve la ricordate? E questo era il momento dell'arresto alcune settimane fa di Amina, colpevole. Vi ricorderete il gesto eclatante? Postò quella foto su Facebook a seno nudo, ma nella fattispecie è stata poi arrestata per aver scritto Femen su un muro, il muro di un cimitero, però è un cimitero abbandonato. Insomma, fra l'altro, a proposito di Femen, 2 giorni fa sono state rilasciate le 3 Femen, le altre, quelle straniere, che hanno fatto la loro azione dimostrativa davanti al Tribunale di Tunisi. Da un lato la Femen tunisina, dall'altro invece un rapper giovanissimo, un ventenne, si chiama Vel El Kenz, e in un suo brano ha osato paragonare i poliziotti ai cani. شدوني على الاستهلاك عدوني عالزاطة بكاو لميمة هزوني ربي باطة في قالب غلطة حطوني في ورطة تونس نعطيها وردة حكومة تاخد كارتة. Insomma, siamo di fronte a 2 casi, 2 giovani tunisini che entrambi combattono una battaglia per la libertà di espressione. Poi sui contenuti, sul merito si può sindacare finché si vuole. In entrambi i casi la giustizia è stata piuttosto pesante, soprattutto però nel caso di Wel El Kenz, che è stato condannato a 2 anni per quell'espressione in rima, per quella rappata troppo graffiante, troppo irriverente verso i poliziotti tunisini. Sentite ancora Nadia Gelassi, l'artista, su questi 2 casi così mediatizzati di artisti imprigionati. Io faccio una differenza tra Amina e Wel El Kenz, perché Amina è stata arrestata per aver profanato, fra virgolette, un cimitero. Questa è anch'essa un'interpretazione. Lei ha solo scritto con una bomboletta nera il nome Femen sul muro di un cimitero in più abbandonato, dunque si può parlare di profanazione. Non ha attaccato una tomba, non ha quindi giocato con quel simbolo specifico. È stata subito arrestata dopo questo fatto e poi è ancora in prigione. Ad oggi deve affrontare un processo, non è stata giudicata fino ad ora, quindi vedremo, aspetto di vedere cosa succederà. Spero che venga rilasciata, perché francamente tutto ciò lo trovo ingiusto. Di contro il rapper è già stato giudicato, e rapidamente. È stato già giudicato perché ha diffuso tramite YouTube una canzone che parla della polizia, dove paragona i poliziotti a dei cani, e per questo è stato condannato a 2 anni di prigione. È una condanna chiara e netta. per me non a norma di legge. È più che altro una condanna esemplare per zittire i giovani, altri rapper e tutti coloro che vogliono criticare la polizia. E qual è il problema della polizia in Tunisia? Al suo livello non ci sono più state riforme. La polizia è stata al servizio di Ben Ali. Ha esercitato molte ingiustizie, è molto odiata dai giovani e non c'è stata nessuna riforma. Mentre la situazione del paese è cambiata. C'è tutta questa aspirazione alla libertà di espressione e allo stesso tempo tutto un apparato giuridico a livello di articoli, di strutture, che spinge indietro. Quindi io non posso che condannare questa sentenza a 2 anni. Certi sostengono che se lo merita perché è stato provocatorio e così via. Anche in quel quadro è molto grave, perché anche in Francia si parlava della polizia come di nazisti, si urlava poliziotti SS negli slogan, ed era grave. Spero che in sede di appello si ricredano su questa condanna veramente ingiusta. Sicuramente per dare l'esempio è troppo. Questo è strumentalizzare politicamente 2 anni. I giudici e i politici non so se sappiano che cosa voglia dire effettivamente per un giovane passare 2 anni in prigione per aver cantato una canzone. Si può criticare lo slogan, si può condannare simbolicamente a dei lavori per la collettività pubblica, ma 2 anni. Per 2 anni sarà insieme a dei criminali, veri criminali. Per un giovane che non ha fatto altro che esprimere la sua idea e la sua paura vera per la polizia. Perché la polizia in Tunisia non è mai stata tenera, né con i giovani né con gli oppositori, e non è mai stata riformata. Si vorrebbe fosse riformata, ma il problema è anche politico. Sono sempre le stesse persone, gli stessi regolamenti, gli stessi strumenti senza controllo, eccetera. Sono molto dispiaciuta per lui e spero, anche per Amina, che venga rilasciato. Quindi io direi libera Amina e libero Weldel Kenz molto forte. È quella della libertà di espressione, del braccio di ferro tra anima laica e anima islamista, non è l'unica sfida che deve fronteggiare la Tunisia, perché se ne è parlato pochissimo in Italia, ma nel massiccio montuoso di Ciambi, siamo al confine con l'Algeria, da alcuni giorni, da alcune settimane sono in corso fortissime operazioni militari. Perché? Perché militanti estremisti ben armati hanno installato lì dei loro campi e transitano tra appunto il territorio tunisino e quello algerino. Alcuni analisti sostengono che vengono direttamente dal nord del Mali e insomma la Tunisia si trova anch'essa ad affrontare la minaccia terroristica fra le tante sfide. Titoli di coda. Non mi resta quindi che ringraziare Benedetta Acri, Laura Faggin, che hanno confezionato con me questa puntata, Valeria Bernardi, che l'ha dato musica e ritmo, voi, gentili ascoltatori, per essere stati all'ascolto di questi 3 luoghi di questa sera. L'appuntamento è per la replica la domenica, ore 22, oppure sabato prossimo, ore 19:15, quando di nuovo Nessun Luogo sarà lontano. Un saluto intanto da Giampaolo Musumeci. Nessun Luogo è lontano.